domani nevi che sì. Così mi metto le superga bianche che si sporca, ne so di vissuto. E si sporcano di 6 bicchieri di vino, si sporcano di fragole, di rose, nebbia mista, cioccolato di un supermercato estivo vuoto. È troppo facile vivere di notte, è troppo facile ridere mentre si dorme. Gentilissimo, oggi è stato sangue giorno, rosso di sera. Gentilissimo, oggi è stato sangue giorno, rosso di sera. Gentilissimo, ho spaccato un labbro al giorno, rosso di sera. Gentilissimo, ho sputato in faccia al giorno, sporco di sera. Marshmallow man che passa tra fulmini e mirtilli sul carrello della spesa, t'accompagno piano a casa. Io conterò preciso i tuoi lividi e tu mi disegnerai una discoteca sul polso, ballando e piangendo. Mi brucia la bocca, sanguina colore, non smetto di prendere a calci questo fottuto sole. Stelle e mie baffi a matita sporchi di moccaccino, fuori dal sexy shop parlami di Eraclito mentre giochiamo a calcio con le pigne.